edizione. Ancora una buona giornata, ancora ben svegliati. Nostra compagnia Anna Migliorati, la redazione di GR24. Siamo pronti per raccontarvi la giornata di oggi. Già in queste prime ore, com'è andata la notte appena conclusa? Cominciamo allora subito, come di consueto, dagli ultimi aggiornamenti delle agenzie che ci portano in Afghanistan, dove è già giorno, dove il centro di Kabul è trasformato in una fortezza in previsione dei funerali oggi dell'ex presidente dell'Alto Consiglio per la Pace Rabbani, ucciso martedì in un attentato nella sua residenza mentre accoglieva una delegazione di familiari. La cerimonia comincerà alle 10 ora locale, quando in Italia saranno le 7:30. Si prevede che partecipino migliaia di persone, tra cui numerose delegazioni straniere e rappresentanze diplomatiche, e si temono attentati. Così a Kabul naturalmente terremo d'occhio la situazione, ma come ormai nostra abitudine, guardiamo come aprono oggi i giornali per iniziare la giornata. Cosa di meglio per cominciare a dare un quadro? Aperture pressoché unanime, con due temi che dominano la giornata di oggi: da una parte l'economia, dall'altra ancora la politica. E cominciamo dal Sole 24 Ore. Rischio recessione, crollano le borse. Così apre oggi il Sole 24 Ore. I timori di depressione economica globale e la crisi del debito europeo scatenano la fuga dei mercati. Milano ha perso ieri il 4,5%, Wall Street il 3,2%. A fianco l'altra notizia: no della Camera all'arresto di Milanese, il governo tiene. La Repubblica: la recessione affonda le borse, l'Europa brucia 270 miliardi, Fondo Monetario Internazionale, ripresa più difficile. Milanese salvo per 7 voti, Tremonti sotto attacco, è l'altro titolo sulla prima pagina della Repubblica. La Stampa: Fondo Monetario, processo all'Europa, l'allarme Fed sulla crescita affossa le borse. E poi ancora: Milanese si salvia, ma scoppia il caso Tremonti. Il Messaggero: borse ancora a picco e anche qui Milanese, il governo resiste. Il Corriere della Sera decide di dare a questa seconda notizia l'apertura: il governo processa Tremonti, la maggioranza alla Camera salva per 6 voti Milanese dall'arresto. A centro pagina del Corriere della Sera: gli investitori temono una nuova recessione, cadono tutte le borse. Restiamo sul Corriere della Sera per un'altra notizia che troverete sui giornali di questa mattina: il Papa è lo shock per gli abusi sui minori. Posso capire chi lascia la Chiesa, così le parole ieri nella sua visita in Germania di Benedetto XVI, parole che stanno facendo non poco discutere. Ancora sul Corriere della Sera: lui ha 72 anni, lei 58, genitore di due gemelli, ancora il tema, quella della ricerca di un figlio ad ogni costo. E un'altra notizia invece ve la segnalo da Il Messaggero: guerra ai vandali dei monumenti, rischiano fino a 6 anni di carcere. Il ministro dei beni e delle attività culturali ha proposto e il Consiglio dei Ministri ha approvato, così ieri, ma avremo ancora occasione di parlarne nella più ampia rassegna stampa, come sempre, attorno alle 7:20 con Alessandro Milan. Un'unica segnalazione, questa mattina ve la diamo dai siti stranieri perché scegliamo il Wall Street Journal. C'è un'immagine degli investitori di Wall Street: mercati, timori di recessione. Sui timori di un nuovo default del debito greco, gli investitori scelgono il fuggi-fuggi verso la relativa sicurezza degli Stati Uniti, comprando titoli del tesoro americano. Relativa sicurezza, scrive il Wall Street Journal, ed è davvero il segno di quella che è stata una giornata davvero difficile. Allora, così i giornali, le notizie delle ultime ore. Cominciamo, come dicevamo, con prima edizione, andando negli Stati Uniti. Stati Uniti, dove ci aspetta? A New York, Mario Platero, buongiorno. Decisamente, ci siamo sentiti l'altro giorno, subito dopo il declassamento da parte di Standard & Poor's dell'Italia. Ci sentiamo questa mattina dopo una serata, almeno serata vostra, davvero difficile per quanto riguarda i mercati americani. Cosa è successo, Mario? Cosa ha pesato? Le tensioni sono cominciate nel tardo pomeriggio di ieri, quando si è letto con maggiore attenzione il comunicato della Federal Reserve. E cioè Bernanke notava la debolezza dell'economia, che avevano notato in precedenza i governatori della Fed, ma indicava anche il rischio che le cose potessero peggiorare, soprattutto sul fronte della crisi finanziaria, dei mercati finanziari. Ecco, questo è stato il primo elemento scatenante. e ci sono state una serie di cose che hanno peggiorato l'umore, la situazione dei mercati. Per esempio, un articolo di Ellerian sul Financial Times e il capo di PIMCO. PIMCO è forse il più grosso gestore americano, ha $1,000 miliardi in gestione, pensate, $1,000 miliardi in gestione. Ebbene, ha scritto che le banche francesi sono in gravi difficoltà e che rischiano di trascinare nelle loro difficoltà il resto del sistema bancario europeo. Uniamo questa sensazione, questa posizione con quello che ha detto la Fed ed ecco che si cominciano a creare i primi elementi del perfect storm. Dopodiché c'è stato un paper, il rapporto mensile del centro studi di Nouriel Roubini, che di nuovo indicava rischi recessivi. A quel punto, diciamo così, si sono rotti gli argini, gli operatori sono stati presi un pochettino dal panico, hanno venduto di tutto, hanno venduto titoli buoni, titoli meno buoni. A questo punto si tratta di capire se ci sarà un rimbalzo o meno, come è successo in passato. Ecco, esattamente questo. Cosa oggi potrebbe invertire gli umori più che gli indici, perché poi tu stesso ci dicevi che è proprio questione di pelle, questione di umori. Tra l'altro a Washington sono riuniti i ministri economici per il G20, il sistema finanziario presenta delle fragilità, questo è il comunicato che è uscito nella notte dal G20, dove c'è anche il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti. Cosa potrebbero dire, cosa potrebbe succedere perché la situazione oggi possa essere diversa, Mario, secondo te? C'è stato un messaggio piuttosto aggressivo da parte di alcuni membri del G20, una lettera che è stata scritta all'Europa perché si muova, perché proceda con alcune iniziative importanti. Direi che i paesi sono l'Australia, sono la Corea del Sud, sono dei paesi, diciamo così, che ancora non fuori dalla bufera. Esatto, fuori dalla bufera, che non fanno parte dei circuiti normali. E allora ci sono due sensazioni. La prima, noi siamo chiaramente in una situazione di crisi. Nelle situazioni di crisi spesso si può trovare la forza per andare avanti. È chiaro che l'Europa oggi ha la possibilità di rafforzare la sua unione piuttosto che indebolirla. L'alternativa sarebbe impensabile, sarebbe cioè una spaccatura dell'euro. D'altra parte ci vuole questo rafforzamento, ci vuole la leadership, una dimostrazione di leadership da parte dei nostri governanti, e dunque formare quel famoso ministro delle finanze europeo, che è poi la premessa per poter creare anche un fondo speciale, chiamiamolo TARP, chiamiamolo fondo speciale europeo, Eurobond, chiamiamolo come vogliamo, che finirà per raccogliere i titoli in difficoltà. Ecco, in tutto questo aggiungi che però c'è stata una nota, una dichiarazione del segretario al tesoro Tim Geithner, è piuttosto preoccupante, perché Geithner ha detto chiaramente, ha ripetuto un po' queste stesse cose, ma in modo più esplicito, ha detto che se l'Europa non procede, non va avanti, non prende delle iniziative per rafforzare quelli che sono gli strumenti che sul piano fiscale ancora mancano a quello che è stato il processo di Maastricht, l'intero processo fallirà. E l'euro fallirà, insomma un attacco diretto all'euro che, devo dire, mi è sembrato un po' eccessivo e soprattutto poco opportuno da parte degli Stati Uniti. Ecco, io credo che spurgato quello che è stato il processo di vendite di ieri, oggi possiamo sperare in una stabilità. Un rimbalzo immediato secondo me serve a poco, perché chiaramente dimostrerebbe una volatilità che, se vuoi, denota ancora di più preoccupazione, perché poi rimandano soltanto il problema. Grazie, lasciamo andare a dormire Mario Platero. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Prima edizione. E alle 6:34 minuti di questo venerdì, ancora ben svegliati a chi ha cominciato solo ora ad ascoltarci, è sempre prima edizione, sempre buona giornata da Anna Migliorati. Al momento di Italia in controluce parliamo di energia. Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, Italia in controluce, le storie che non avete sentito altrove. Biocombustibili, auto elettrica, casa intelligente, ma anche energie rinnovabili o nucleare. Da oggi fino a domenica di tutto questo si parlerà a Firenze, dove si tiene il Festival Energie Spiegate, il Festival dell'Energia appunto. Tanti incontri, iniziative dedicate quest'anno all'energia intelligente. Cristina Carpinelli. tema dell'energia è portante per governi e industrie, influenza le società ed è all'ordine del giorno di paesi industrializzati ed emergenti. L'aumento dei prezzi dell'energia, la crescente dipendenza dalle importazioni ha obbligato, ad esempio, l'Unione Europea, cioè uno dei mercati di importazione energetica più importante al mondo, con oltre 500 milioni di consumatori, ad approvare Energia 2020, un pacchetto di provvedimenti ambiziosi rivolti in buona parte al mercato delle rinnovabili. Il tema è dunque sentito anche quando si parla di riduzione delle emissioni e di mitigare i cambiamenti climatici. Nasce con questo spirito l'Energia Spiegata Festival dell'Energia, una piazza, quella fiorentina, che dal 23 al 25 settembre promuoverà dibattiti, idee, eventi, incontri per condividere i saperi della scienza. Quest'anno il tema del festival sarà l'energia intelligente. Ma che cos'è l'energia intelligente? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Boelcke, presidente di ARIS, Agenzia di Ricerca, Informazione e Società, cioè l'associazione che organizza ogni anno il festival. Energia intelligente significa proprio l'origine della parola, intelligere, quindi l'intelligere dentro. C'è bisogno nel mercato, nel settore dell'energia, di capire quali possono essere i passi da fare da oggi in poi per riuscire a produrre energia in maniera sempre più efficiente e con un impatto sulla sostenibilità ambientale che sia sempre migliore. Il tema energetico riguarda anche e forse in modo determinante i paesi in via di sviluppo. Sono molte ormai le storie di energia alternativa utilizzata in Africa e America Latina, ma sono ancora troppe le persone costrette a vivere senza energia elettrica. Si parla di quasi un quarto della popolazione mondiale. Come colmare questo divario? La domanda è complicata e la giriamo a Alicia Casamassima di COPI, che si occupa proprio di questo tema. Così, è decisamente una domanda complicata. Diciamo che sicuramente mancano le tecnologie, mancano le infrastrutture, soprattutto in questi paesi molto spesso non c'è interesse da parte delle aziende ad investire perché sono paesi molto poveri. Per questo noi crediamo che possa essere anche compito della cooperazione quello di intervenire nel settore. Abbiamo in realtà due progetti che sono appena partiti, uno in Malawi, l'altro in Etiopia, di energy facility, quindi specifici. L'esperienza più grande di COPI nel settore dell'energia, come settore specifico, ce l'ha in Bolivia, dove abbiamo lavorato fin dagli anni 90 per la costruzione, la riabilitazione di una centrale idroelettrica e la costruzione di un'altra centrale idroelettrica, e dove appunto abbiamo lavorato per elettrificare tutta una regione a 4.000 metri di altezza a Kami, portando energia, ora circa 2.000 kW di energia in 37 km di rete elettrica. È tutto anche per questa puntata. Scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata. Ed è prima edizione. Le notizie della notte, le notizie del mattino, gli ultimi aggiornamenti. Saluto Federico Pedrocchi. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti. Voce conosciuta di Radio 24, voce che parla di scienza. Diciamolo subito, noi ti avevamo svegliato questa mattina per parlare dei frammenti di satellite della NASA che potrebbero cadere oggi nel nord Italia. Secondo i dati della Protezione Civile, l'evento, le possibilità che l'evento si verifichi è pari allo 0,6%. Ancora difficile stabilire la zona esatta dove possa verificarsi. La finestra di rientro è tra le 14 di oggi e le 3 di domani mattina. Allora, una battuta velocemente su questo, Federico, perché questa volta tanto allarme, visto che non è un evento poi così raro, insomma, di spazzatura spaziale ce n'è? L'allarme è proprio cosa nostra, perché a un certo momento qualcuno ha detto potrebbe essere che il luogo in cui cade è circa 800-1000 km che vanno dalla fine del confine francese con il Piemonte e l'Adriatico, e quindi chiaramente a casa nostra molto particolare per noi. però insomma è anche questa una finestra che potrebbe variare moltissimo, siamo ancora lontani. Quello che si calcola è che in pratica l'orbita diventa abbastanza precisa negli ultimi 40 minuti del volo, quindi siamo ancora a distanza di 20 ore potenziali e purtroppo i dati non possono essere un granché. E poi insomma certo è altissima la probabilità che l'atmosfera lavori bene come al solito e quindi lo sciolga questo satellite, però insomma ok, diamoci un'occhio. Teniamo gli occhi al cielo. Va bene. Più che al cielo però le notizie di questa mattina ci portano a puntare gli occhi invece sul CERN, un esperimento che tu ci hai raccontato più di una volta e che però potrebbe aver rivelato davvero una sorpresa importante. I neutrini superano la velocità della luce. Questi sarebbero i risultati. Mancano le conferme ufficiali della comunità scientifica, ma i risultati sembra che siano questi e siano stati diffusi ieri sera appunto dal CERN. Detta così suona un po' un arcano. La realtà è che la velocità, la luce potrebbe essere davvero non la cosa più veloce, ma soprattutto che la teoria della relatività di Einstein perde un pezzo importante. Perde un pezzetto importante, non da poco, lasciami dire che purtroppo qui c'è un piccolo giallo barba, insomma neanche tanto giallo perché è stato risolto. Allora, non doveva circolare questa notizia, era embargata, come si dice in gergale giornalistico, fino a domani sera. Il nostro Antonino Zichicchi, personaggio un po' poliedrico, che però era a conoscenza di questa cosa, come eravamo a conoscenza noi tutti insomma, che operiamo in questo campo, ha deciso di rompere il silenzio e di fare questa comunicazione, che devo dire non è una cosa molto corretta. Perché? Perché oggi a Ginevra c'è un seminario definitivo che cerca di tirare le fila di tutti i dati che si hanno e poi ci sarà una comunicazione ufficiale. Questa è la prassi che si usa nella scienza. Zichicchi, insomma, così come accade ogni tanto, ha fatto è andato un po' fuori dalle righe. Che non bisognerebbe fare. Che non bisognerebbe fare. Però al di là di questo problema diplomatico, cosa cambia per noi? Toccare la teoria della relatività e andare a vedere che ci possano essere oggetti che vanno oltre la velocità della luce significa, come si può dire, significa mettere mano a tante conseguenze che da questo limite invalicabile che era stato definito dalla relatività è un po' come togliere la pietra d'angolo, il mattoncino di tante che tiene su tante teorie. Che tiene su tante cose, non è che viene ad essere completamente scalfita la teoria della relatività, quello che viene ad emergere è che allora questo neutrino in che mondo, in che spazio, in che tempo vive, perché ha una sua sfera temporale, spaziale, e questo può rimandare effettivamente al fatto che mentre abbiamo qui la nostra realtà, quella che conosciamo molto bene e che tocchiamo e vediamo ogni giorno, potrebbe se ne apre un'altra. Parallelamente un'altra. Questa è questo. Lasciamo tra la scienza e la fantasia ognuno trarre le proprie considerazioni. Noi restiamo nell'ambito della scienza, grazie al nostro Federico Pedrocchi. Lasciami dire che ne parleremo domani sera con un'intervista con quelli del Gran Sasso. Ecco un'altra cosa importante. Appuntamento doveroso su Radio 24. Ci ha lavorato il Gran Sasso italiano. Il Gran Sasso italiano, capiremo cosa ne è uscito. Grazie Federico Pedrocchi. Il nostro stacco ormai abituale per prima edizione per voltare pagina. Allora voltiamo pagina, andiamo invece a parlare d'altro. Oggi è un giorno importante per il Medio Oriente perché la richiesta di riconoscimento all'ONU di uno Stato di Palestina sarà presentata ufficialmente al segretario generale delle Nazioni Unite. L'appuntamento è alle 11.30 ore locali, quando saranno le 17.30 in Italia. Poi parlerà l'Assemblea del Generale dell'ONU, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, e poi che succederà? Che succederà in Israele? Che succederà all'ONU? Saluto il prossimo ospite, Giorgio Bernardelli, esperto di Medio Oriente. Buongiorno. Buongiorno a voi. A te subito una domanda, perché i territori israeliani e palestinesi li conosci molto bene. Che reazioni potrebbe avere oggi si parla di sicurezza rafforzata già in Israele. Secondo te è un rischio reale? Ma certamente è una situazione molto tesa. Già ieri ci sono state manifestazioni nei territori molto accese dopo il discorso dell'altro giorno di Obama, in cui ci sono state proteste per il momento pacifiche, raduni a sostegno di quello che appunto sarà l'intervento oggi di Abu Mazen, la speranza di tutti, ma insomma anche quello che potrebbe succedere oggi potrebbe ricalcare ancora lo schema di ieri. Penso che oggi ci saranno manifestazioni di massa a sostegno appunto del discorso del Presidente Abu Mazen, che sarà nel pomeriggio locale anche in Israele, nei territori. Certo, è una situazione molto tesa e qualsiasi scaramuccia, qualsiasi scintilla potrebbe degenerare. Prima edizione. Ancora con Giorgio Bernardelli, esperto di Medio Oriente. Dicevamo, oggi giornata importante per i territori palestinesi, importante per Israele, perché ci sarà la richiesta ufficiale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del riconoscimento di uno Stato di Palestina. Obama nel suo discorso ha detto: non è da qui che passa la pace, è da una tregua sul campo. Secondo te, dopo tanti anni che una pace si cerca a Gerusalemme, forse la svolta potrebbe arrivare invece a New York? Ma è quello che si augura l'autorità nazionale palestinese con questa mossa. Non bisogna dimenticare che a questo passo si è arrivati dopo uno stallo che dura ormai praticamente da un anno su ogni via negoziale per la soluzione di questa crisi. Appunto, i negoziati sono fermi dal settembre dell'anno scorso, quando il governo israeliano, attraverso il premier Netanyahu, ha rifiutato la proroga della moratoria temporanea nelle costruzioni degli insediamenti, e nell'ultimo anno sono stati di fatto partire davvero molti progetti di costruzione di insediamenti. È anche un tema di cui ci eravamo un po' dimenticati, presi da altri problemi, cioè i leader internazionali in realtà sono occupati su altro. E questo è il grosso problema di questa situazione. Si è lasciato che arrivasse questo momento, insomma, dell'Assemblea Generale dell'ONU straannunciato, senza arrivare a una proposta, insomma, di mediazione, di sblocco che potesse risolvere questa situazione. Siamo arrivati tutti molto impreparati a questa situazione, con l'amministrazione americana che ha sostanzialmente fatto marcia indietro rispetto all'impegno che aveva avuto sul Medio Oriente all'inizio del mandato di Obama. E che forse quindi in questo momento non può permettersi di combattere su questo terreno. Parliamo anche di un'autorità nazionale palestinese che chiederà il riconoscimento, ma che in questo momento è tutt'altro che unita. Assolutamente sì. Da maggio esiste questo sulla carta, questo accordo di riconciliazione nazionale che doveva portare a un governo che mettesse insieme le fazioni. Siamo ormai quasi alla fine di settembre e questo governo ancora non c'è, non si vede. Tanto per dare un'idea di come stiano le cose, oggi tra Ramallah e Gaza non c'è un accordo nemmeno sull'applicazione dell'ora. È stata impostata l'ora legale da una parte e dall'altra no. Siamo veramente alle basi. Esatto, questo per dire che non è. È una situazione in cui non certo un voto all'ONU non è che crea magicamente uno Stato. Però è un primo passo. Grazie Giorgio Bernardelli, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Velocemente chiudiamo, anche perché abbiamo davvero pochissimi secondi, ma non manchiamo di salutare Alessandro Milan, puntualissimo con noi. Ciao a tutti, a tra poco allora. No Alessandro, dai, una chicca abbiamo tempo di darla. Ma sì, pare che stia piovendo un satellite o pezzi di satellite su parte dell'Italia, insomma c'è questo timore per questa sera, ma sappiate che la probabilità di essere colpiti è una su 23.000 miliardi, quindi possiamo stare relativamente tranquilli. Ne parliamo tra poco. Allora, con Alessandro Milan, 7.20, la rassegna stampa. Noi ci risentiamo tra pochissimo con GR24, Carmelo Lauricella, Alessandro Longoni in regia. Da Anna Migliorati, buona giornata.